4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Amici dei motori, buonasera, bentornati e buona Pasqua. Questo è il weekend pasquale, ma noi non manchiamo con i motori, Radio 24 e 4 ruote insieme. Intanto per ricordare gli amici dell'Abruzzo, tutti gli automobilisti, i motociclisti, insomma dopo le tragedie umane ci sono anche tanti disagi. Ecco, cerchiamo di starvi vicini, in parte con informazione, in parte con la tanta solidarietà che da tutta Italia si è mossa, e devo dire ne parleremo anche questa sera con il direttore di 4 ruote che ha lanciato un'iniziativa encomiabile. Parleremo in apertura di una prova comparativa BMW Serie 1 contro Lancia Delta e poi di MotoGP, perché parte domani sera Valentino Rossi contro Stoner davanti a tutti, ma poi anche la 250 e la 125. Ne parleremo appunto con Paola Barogno di Due Ruote. Poi ci sarà la conclusione della nostra inchiesta sulle compagnie dirette, nona e ultima puntata con assicurazione.it, e un super inchiestona sulle gallerie pericolose. Faremo un approfondimento di quanto detto già nelle settimane scorse con il presidente dell'ACI e con l'avvocato Lievore, che ci ricorderà i comportamenti migliori. Allora, da 4 ruote vorrei salutare Carlo Di Giusto. Buonasera Carlo. Buonasera Roberto, buonasera a tutti gli ascoltatori. Carlo, vorrei che fossi tu ad introdurre proprio per loro, per gli ascoltatori, il senso di questa comparazione. Da una parte BMW Serie 1, dall'altra una Lancia Delta. Sì, sono due macchine, nonostante l'apparenza, profondamente diverse, però hanno in comune una soluzione meccanica particolare. I loro motori turbo diesel sono sovralimentati con due turbocompressori ciascuno, e sono turbocompressori sequenziali, uno in fila all'altro. Perché questa soluzione? Perché così si ottiene un motore bello pieno ai bassi giri e molto potente agli alti giri. Certo, questo permette oggi la tecnologia. Si parla naturalmente di due auto con tanti cavalli, capiremo fra poco quanti con la scheda che vi abbiamo preparato. È un confronto particolare quello fra Lancia Delta e BMW Serie 1, un accostamento che fino a pochi anni fa difficilmente si poteva ipotizzare. Le due vetture del segmento C vantano unità propulsive simili fra loro. La Delta è equipaggiata con un 1.9 multijet da 190 cavalli, la Serie 1 con un 2.000 turbo diesel biturbo da 204 cavalli. Una è una media che prova a fare l'ammiraglia, l'altra una sportiva camuffata da berlina. Un duello fra auto diverse, una sfida tutta di sostanza. Lancia Delta 1.9 MJT Twin Turbo, BMW 123D Futura. Delta, lunghezza 4,52 m, larghezza 1,79 m. BMW, lunghezza 4,23 m, larghezza 1,74 m. Motore, Delta, anteriore trasversale diesel 4 cilindri. BMW, anteriore longitudinale diesel 4 cilindri. Potenza, Delta 190 cavalli, BMW 204 cavalli. Trasmissione, Delta trazione anteriore, BMW trazione posteriore. Prezzo, Delta 29.251 euro, BMW 35.721 euro. Allora, queste erano le caratteristiche principali. Carlo, vorrei che tu ci portassi dentro l'abitacolo e ci facessi capire la differenza di guida di queste due vetture. Sì, queste due auto, come dicevo prima, sono molto diverse. Perché? Una è improntata a una guida estremamente dinamica, la BMW, l'altra invece più al comfort di marcia, la Lancia Delta. Nonostante le potenze siano molto elevate, la BMW è 204 cavalli e la Lancia ne ha 190, l'approccio è molto diverso. Sulla BMW si guida, con la Lancia Delta si viaggia, e c'è una bella differenza. Sì, questa è già un'indicazione molto utile. Tu ti riferisci soprattutto al motore o anche al comportamento dinamico proprio della vettura? Quando dici si viaggia, ci fa intendere che sulla Lancia Delta si sta più comodi e sulla Serie 1 della BMW si ha più sportività a disposizione? È un giudizio che riguarda l'automobile nella sua completezza, quindi i motori hanno caratteristiche simili, ma non per questo le vetture sono simili, tant'è vero che proprio la differenza è di carattere dinamico. La guida coinvolgente della BMW, il comfort della Lancia, ecco, sono queste le caratteristiche che emergono in maniera più vistosa. Certo, senti Carlo, parliamo anche di prezzo, perché non sono proprio identici i prezzi e c'è una manciata di migliaia di euro di differenza a favore della Lancia, che costa un pochino meno. Come motiviamo questa scelta, solo con il brand o posizionamenti e target diversi? sicuramente il marchio ha il suo peso, però non dimentichiamo anche che la BMW esce già con un equipaggiamento di base un pochino più ricco di quello della Lancia, quindi le differenze di prezzo sono giustificate proprio anche dai contenuti. Parlando della serie 3, che ha avuto e ha probabilmente avrà sempre grande successo, macchina azzeccatissima, serie 5 meno numeri ma anch'essa molto apprezzata, per non parlare dell'ultima limousine di casa BMW, serie 7 difficile forse da vendere in questi periodi ma auto eccezionale. Secondo te la serie 1 sarà apprezzata sul mercato italiano dopo che negli anni scorsi non è che abbia fatto segnare numeri di vendite enormi? Ma la BMW serie 1 è sicuramente un'auto che avrebbe più successo se costasse un pochino di meno. Credo che sia un'auto molto desiderata, che poi la gente la compri o meno dipende proprio dalla disponibilità di denaro. Senti, quando abbiamo provato la Lancia Delta nuova, il direttore di Top Gear, il vostro collega Minerbi, disse che la nuova Lancia Delta era un'ottima auto, ma non c'entrava niente con la Delta vecchia. Con questa multijet, twin turbo, un po' più di cavalli, tu credi che si possa recuperare quel gap evidenziato oppure no? No, secondo me no, perché sono proprio diverse gli scopi della vettura. La prima Delta si è costruita un'immagine solidissima con le corse, questa Delta invece non corre, quindi direi che c'è proprio una differenza di fondo importante. Diciamo che la prima Delta è irripetibile da questo punto di vista. Molto bene, sentiamo allora la pagella che dà i voti a queste due auto e torniamo per salutarci. Posto guida. Automobili diversamente comode. Raccolta la BMW. Abbondante la Lancia, che ha la seduta convessa anziché concava. Alla lunga a fatica. Ottimi per entrambe gli appoggi per il piede sinistro. Delta, 4 stelle. BMW, 5 stelle. Finiture. Materiali di pregio sull'italiana, assemblaggio appagante sulla tedesca. Il livello è comunque al di sopra della media della categoria. La Delta costa parecchio di meno e la si perdona di più. Delta, 4 stelle e mezzo. BMW, 4 stelle e mezzo. Comfort. Qui entrano in gioco le aspettative, che sulla Lancia sono per forza di cose elevate e che sia per l'assorbimento sia per la rumorosità vengono un poco disattese. La 123D è come te l'aspetti. Delta, 3 stelle e mezzo. BMW, 4 stelle. Su strada. Due modi molto diversi di stare al volante. La 123D gratifica soprattutto chi sa assaporare il gusto della bella guida. Con la Delta, invece, ci si lascia trasportare. Tutte e due molto sicure. Delta, 4 stelle. BMW, 4 stelle e mezzo. Allora, queste erano le votazioni della pagella delle due auto. E Carlo, vorrei chiudere con pregi e difetti. Iniziamo dalla BMW. Sì, Roberto. Dunque, della BMW direi sostanzialmente il motore esuberante. 204 cavalli, abbiamo detto, ma anche un motore piuttosto brillante e vivace. Le prestazioni sono ovviamente da sportiva, da vera automobile sportiva, e per prestazioni non intendo soltanto la velocità massima, l'accelerazione, la ripresa, queste doti, ma anche proprio le caratteristiche dinamiche, che sono una delle cose che emergono maggiormente guidando questa BMW 123D. Per quanto riguarda i difetti, invece, direi l'abitabilità posteriore. La BMW 123 è un po' piccolina dietro e poi sicuramente, come dicevamo, il prezzo impegnativo. Per quanto riguarda invece i pregi della Lancia Delta, abbiamo un motore che sicuramente è gradevolissimo. È corposo ai bassi giri, è bello potente e brillante agli alti, a differenza della BMW, la Delta invece è un'auto molto spaziosa e anche chi siede sul divano posteriore gode di un'ampia libertà di movimento. Un'altra particolarità della Delta è il consumo veramente contenuto. I difetti però sono legati al cambio. Per prima cosa non è previsto un cambio automatico e questo è un po' un limite per una vettura di questa categoria, e soprattutto la frizione è molto pesante, quindi affatica un poco durante la guida ed è un po' un controsenso per un'auto che invece è votata al comfort di marcia. Eh sì, questo è vero. Grazie davvero a Carlo Di Giusto da Quattro Ruote, a prestissimo e buona Pasqua. Grazie a te Roberto, buona Pasqua a tutti gli ascoltatori. Grazie a Carlo Di Giusto, vi ricordo che questa prova comparativa è riascoltabile anche sul nostro sito radio24.it, è sufficiente andare a cliccare sulla sezione programmi e scegliere Quattro Ruote e dintorni. Non solo ci sono le foto delle due auto, ma c'è anche scaricabile il file che vi consente di riascoltare la trasmissione con il commento dell'auto e le schede principali con le caratteristiche delle due vetture. Il tutto sperando che sia comodo per voi nel caso non poteste seguire questa trasmissione durante il sabato sera. Rimane tutta la settimana online. Grazie davvero ai nostri ospiti. Quattro ruote e dintorni. Allora, proseguiamo con la MotoGP, dicevamo, finalmente è giunto il primo weekend, dico finalmente perché negli ultimi anni, lo sapete, ha avuto sempre più successo, molto seguita dai giovani ma anche dagli adulti, da tutti coloro che la domenica amano andare a fare i giri all'aria aperta in moto. Finalmente è arrivata la bella stagione, anche se questo weekend il tempo non è proprio il massimo, però parte da tutt'altra parte del mondo il MotoGP. Ne parliamo con il caporedattore di Due Ruote, Paola Baronio. Cara Paola, buonasera. Buonasera a tutti voi e ciao. Facciamo un'apertura prima di parlare di questa pista in cui sono impegnati. L'apertura di questa stagione, quindi 2009, riparte alla grande. Chi vede tra i preferiti e favoriti naturalmente Rossi e Stoner, ma chi altri? Allora, è una stagione molto complessa perché, come tu sai, anche il moto mondiale, purtroppo, come tutto lo sport e come comunque questo tipo di sport con i motori, è stato toccato dallo tsunami della crisi, quindi ci sono un sacco di tagli, un sacco di cambiamenti di regolamento, ma adesso va bene, parleremo magari più avanti. Certo. Il moto mondiale vivrà, mi auguro, tutto e comunque della sfida sportiva. Allora, Rossi, Stoner, i duellanti, ormai anche tutti i titoli di questi giorni parlano appunto di questa grande sfida. Uno è un campione che non ha bisogno appunto più di presentazioni, si presenta alla sua 14ª stagione, ha vinto 8 titoli. Stoner è l'avversario sicuramente più accreditato e più titolato. Stoner ha solo 24 anni, Valentino ne ha 30. Stoner ha vinto le ultime due gare in Qatar, Valentino l'anno scorso ha avuto in Qatar la peggiore delle sue prestazioni, è arrivato soltanto quinto. Però quest'anno Stoner, che è partito già ai test molto bene ed ha avuto sempre il record di velocità su tutti, ha questa piccola incognita del polso, dell'operazione che ha avuto alla mano. Sì, anche se l'abbiamo visto veramente in forma recentemente, due settimane fa ha vinto la BMW come trofeo di una super pole, insomma girava veramente forte. Sì, l'incognita forse che ha lui è nella gara, cioè lui è sempre molto avanti nei test, a volte non è sempre così altrettanto prestazionale in gara, non è stato sempre così, nei corpo a corpo, in quelli pochissimi che ha avuto, l'unico insomma importante che tutti ricordiamo, Laguna Seca, è stato sconfitto da Rossi. Non credo che ci sarà una cosa di questo genere già subito alla prima gara, anche se sarebbe bello vedere già un corpo a corpo tra i due. Beh, bellissimo. Approfittiamo per dare gli orari, anche l'appuntamento quindi televisivo in questo caso riguarda domani sera, domenica, quando si correranno le gare, Paola. Sì. Allora, alle 19 si corre la 125, alle 20:15 la 250, alle 10, alle 22 la MotoGP. È una gara che si svolge al buio, con la luce artificiale, come dall'anno scorso è iniziato a fare in Qatar. Quindi l'anomalia è questa. L'anomalia può essere anche una pista magari che risente un pochettino della sabbia. Il tempo in questi giorni è incerto, ma dovrebbe essere comunque. Speriamo che non ci siano problemi. Molto bene. Senti, chiudiamo con Dovizioso e la Honda. Hanno un po' deluso nelle ultime ore, anche perché, anche se ci si aspettava molto, insomma. Allora, dalla Honda ci si aspetta sempre che sia il competitor, se non il vincitore. Di fatto la Honda quest'anno ha momenti di crisi, nel senso che il suo pilota, la guida numero uno, ha grossi problemi. Ha problemi di salute perché ha una ferita che non gli si rimargina e comunque le prestazioni che ha fatto, quindi la guida numero due, che è Dovizioso, alla sua prima stagione come pilota ufficiale nell'HRC, non sono state buone, ma non per colpa di Dovizioso, la moto che non è ancora a posto, perché doveva essere sviluppata ed è stata fatta tutta sulle caratteristiche di Pedrosa, che per vari motivi è latitante. Certo, ti chiedo Paola solo i nomi degli italiani da tenere d'occhio durante tutta la stagione nella 250 e nella 125 e poi ci salutiamo. Beh, Simoncelli perché ha vinto il mondiale, quindi di lui bisogna sicuramente tenere conto. Poi fai conto che in 2.50 ci sono 5 italiani e 125 6. In 2.50 il favorito è lui, gli altri italiani per vari motivi sono costretti a fare il ruolo dei comprimari. In 125 Corsi l'anno scorso è arrivato secondo, ci si aspetta che vada avanti e che vinca il mondiale, sarebbe bellissimo. Calcola comunque che queste due categorie, 125 e 250, soffrono ancora più della MotoGP della crisi e quindi i piloti, anche bravi, sono stati costretti ad andare a volte in squadre diciamo di ripiego. Vedi per esempio, certo, il caso di Pasini, che solo un mese fa ha trovato la moto e corre in 250. Incredibile, lo seguiremo. Grazie davvero a Paola Barogno di Due Ruote, poi su motoonline.com tutte le informazioni tecniche e gli approfondimenti dopo il GP. Grazie e buon weekend e buona Pasqua. Buona Pasqua da parte mia e da parte di tutta la redazione. Allora, ve l'avevo preannunciato a inizio trasmissione, abbiamo il direttore di Quattro Ruote, Mauro Tedeschini, in linea. Buonasera, direttore. A voi. Allora, direttore, anche voi avete fatto qualche cosa per la tragedia che ha colpito domenica scorsa l'Abruzzo, però l'avete fatto legandolo in maniera particolare al nostro campo, quello motoristico. Ci racconta come avete vissuto voi intanto, insomma, immagino anche in redazione, queste brutte notizie, come vi è venuto in mente di aiutare la popolazione sotto altri aspetti. Dopo le tragedie umane, dicevo prima, ci sono anche i disagi, quelli motoristici, quelli stradali. Sì, come tutti gli italiani, credo, e non solo italiani, ci siamo posti fin da subito il problema di come aiutare questa povera gente e quindi l'idea, non molto originale, però credo comunque valida, sia quella di cercare di dare un aiuto per quello che è la nostra competenza specifica, che è ovviamente quello della mobilità. E quindi noi pensiamo che una volta superata, speriamo presto, anche se non sarà facile, questa fase dell'emergenza che riguarda soprattutto il fatto di dare una casa a queste popolazioni terremotate, quindi dare loro un tetto, noi pensiamo appunto che per recuperare una vita normale occorra anche consentire loro di spostarsi all'interno di questi paesi e non solo, perché la mobilità ormai fa parte della nostra vita e senza ci sentiamo assolutamente meno mati. E quindi noi abbiamo lanciato un'iniziativa che si chiama Quattro Ruote di Solidarietà, che si propone non solo di acquistare, grazie anche alle donazioni dei nostri lettori e navigatori, di acquistare, noi pensiamo, degli scuolabus, dei pulmini per anziani, quindi diciamo per la mobilità collettiva, ma anche si propone di così dare suggerimenti attraverso le competenze che ci sono al nostro interno, ma in generale nel mondo dell'auto, per poi arrivare a formule di mobilità anche innovative, ma che soddisfino le esigenze di tante persone. Ad esempio, molti lettori nostri ci hanno detto: perché non si propone il car sharing, cioè macchine che possono, certo, servire a più persone all'interno di una comunità, come un paese o addirittura una città. E devo dire che, insomma, noi crediamo che da una tragedia grande come questa possono nascere anche delle iniziative virtuose che magari consentano in un futuro, speriamo prossimo, di avere una mobilità anche più sostenibile, meno nevrotica, insomma più valida sotto tanti punti di vista. Decisamente, ha sentito che anche i viadotti autostradali, alcune strade hanno risentito subito, ovviamente, le infrastrutture delle grandi scosse, poi sono serviti 3-4 giorni ed è stato tutto rimesso, mi pare riaperto proprio ieri. Ieri venerdì riaperto il traffico anche ai mezzi pesanti. Ci sono dei consigli che lei si sente di dare per la mobilità di quella zona, o se vogliamo ragionare insieme su una specie di brainstorming per risolvere alcune problematiche? Per esempio, è notevole anche l'afflusso di curiosi che si spostano verso l'Abruzzo e molti hanno iniziato a dire, insomma, va bene gli aiuti, occhio ai curiosi, perché non fate altro che intralciare poi quelle che sono le operazioni di aiuto. Beh sì, ovviamente questo è un fenomeno totalmente deprecabile, però credo che noi dobbiamo trarre delle lezioni da questa vicenda. Una delle lezioni è appunto che, insomma, credo che un utente di un'autostrada, peraltro a pagamento, ma anche se non fosse a pagamento nulla cambia, debba aspettarsi quantomeno che questi viadotti, questi ponti siano tutti costruiti a regola d'arte e, se non lo sono, controllati, verificati, eventualmente rimessi a posto anche secondo norme appunto antisismiche, perché è ovvio che se crolla un viadotto e ci sono sopra diverse automobili, cioè c'è una tragedia non molto diversa che dall'essere all'interno di una casa. E poi credo che bisogna che un pochettino tutti facciano la loro parte, quindi ci si rimane abbastanza sconcertati quando si legge che persone che magari dall'Aquila uscivano per andare la sera in questi alberghi che sono stati approntati per esempio sulla costa per ospitare appunto le popolazioni terremotate si vedevano chiedere l'esazione del biglietto dell'autostrada. Insomma, bisogna che un pochettino tutti facciano la loro parte, perché queste persone hanno bisogno anche di sentirsi aiutate, hanno bisogno e anche certe piccole cose finiscono per dare loro un disturbo, un segnale di distanza che credo che in questo momento non ci debba assolutamente essere. Negare, assolutamente. Bella allora l'iniziativa Quattro Ruote di solidarietà, vi rimandiamo al sito quattroruote.it, c'è tutto sul sito perché è sempre il web e la radio sono i due mezzi più veloci ovviamente, ma immagino che anche nel prossimo numero tocchiate l'argomento. Assolutamente sì. Assolutamente. Direttore, grazie, ti ringrazio, ti auguro buona Pasqua, soprattutto buona Pasqua, ci risentiamo a breve giro. Grazie. Grazie a Mauro Tedeschini, il direttore di Quattro Ruote. Passiamo adesso a concludere la nostra inchiesta delle compagnie dirette. È nostro ospite assicurazione.it nella persona del suo CEO Alberto Genovese. Buonasera Genovese. Buonasera. Senta, questa è la conclusione della nostra inchiesta che lei in parte conosce perché gliel'ho raccontata. Abbiamo sentito 7 delle 8 compagnie dirette che esercitano in Italia. L'ottava si è negata, non si capisce perché, ma pazienza, peggio per loro. E invece seisicuro.it ci ha fatto compagnia la scorsa settimana. Vorremmo chiudere in bellezza e con voi anche, ne approfittiamo per fare il punto della situazione sul mercato italiano. Le compagnie dirette stanno avendo un buon successo, sebbene all'estero ne abbiano molto di più. Allora intanto vorrei chiederle, ma se in Inghilterra l'80% delle persone compra la propria polizza RC Auto sul web, in Italia solo il 6%, è vero però che l'anno scorso era ancora meno, quindi c'è buona possibilità di crescita. Lei quanto crede che crescerà questo tipo di mercato sul web? Ma io credo che posso rispondere citando una delle conversazioni che ha fatto un po' nascere l'iniziativa di assicurazione.it. quando, parlando con un nostro amico appunto inglese, lui si domandava come potesse essere possibile che le persone preferivano affrontare tutto, no, le difficoltà di andare a comprare una polizza assicurativa in un'agenzia dove per poter avere magari più un preventivo deve dedicare una giornata, e quando invece può essere conclusa con la semplicità di una telefonata vedendosela recapitare dopo pochi giorni a casa. Se guardiamo anche gli altri paesi europei al di fuori dell'Inghilterra, siamo tutti su quote percentuali che oscillano tra il 20 e il 50%, quindi secondo me quest'ordine di grandezza dovrebbe essere veramente il minimo a cui l'Italia può aspirare nel corso dei prossimi anni. Senta, Genovese, parliamo di assicurazione.it. Che senso ha avere un motore di ricerca, se vogliamo chiamarlo così, un motore di comparazione fra alcune assicurazioni, perché ho notato che ancora non tutte hanno aderito, ma piano piano so che stanno aumentando sul mercato. Qual è il senso di assicurazione.it? Ma assicurazione.it consente all'utente di trovare la polizza oggettivamente più conveniente per lui. Se lei si riferisce al fatto che le assicurazioni ancora non sono tutte su assicurazione.it, però in compenso sono un numero di compagnie che rappresenta oramai buona parte del mercato assicurativo, stiamo parlando del 70% dell'offerta disponibile, con in più alcuni vantaggi che sono molto significativi. Noi, grazie ai volumi che già adesso stiamo riuscendo a raccogliere, negoziamo con le compagnie assicurative e otteniamo gli sconti anche significativi. E qui volevo arrivare. 15%. Qui volevo arrivare, particolarmente interessante questo, perché ovviamente se io da privato faccio un preventivo online prendo delle tariffe più o meno fisse, se lei lo fa e ne negozia 1.000 o 10.000, evidentemente c'è modo magari di inserire attraverso anche voi uno sconto superiore. Quattro ruote e dintorni. Allora, riprendiamo il discorso, siamo in compagnia di Alberto Genovese, il responsabile operativo, Chief Executive Officer di Assicurazione.it, un sito che dà la possibilità di comparare molte compagnie, il 70% delle compagnie operanti in Italia, e ci rivolgiamo agli automobilisti in questo caso. È l'ultima tappa, la nona puntata della nostra inchiesta su tutte le compagnie dirette italiane, quindi soprattutto il discorso va su quelle online e telefoniche. Ci vuole guidare? Io digito www.assicurazione.it. Alberto Genovese, che cosa mi trovo di fronte e che cosa posso fare? Si trova di fronte la possibilità di fare un preventivo auto oppure un preventivo moto. Una volta selezionato il tasto fai un preventivo auto, si viene portati ad una maschera all'interno della quale bisogna compilare i dati relativi alla persona, quindi i dati anagrafici della persona intestataria della polizza, i dati relativi al veicolo, quella la schermata successiva. La sezione è particolarmente semplice perché in realtà basta inserire il numero di targa e i dati vengono da noi scaricati in collegamento con l'agenzia delle entrate. Dopodiché c'è la terza sezione, che invece è quella che riguarda la storia assicurativa, dove qualora fossero stati fatti incidenti nel corso degli ultimi 5 anni bisogna compilare la mascherina con l'attestato di rischio. Il completamento del preventivo porta in media via circa 8 minuti, alla fine dei quali il nostro sito si mette in collegamento con le compagnie assicurative e invia i dati che l'utente ha compilato a 12 compagnie assicurative, riceve da queste le quotazioni e le mostra all'utente. A quel punto si è davanti ad una schermata in cui per ciascuna compagnia assicurativa viene messa a disposizione la tariffa non solo per la responsabilità civile, ma anche per la furto incendio, la tutela legale, tutte le altre 8 garanzie che sono oggi disponibili a completamento della polizza RC Auto. Certo, e su quelle, soprattutto sulle tutele accessorie, si gioca gran parte del mercato dei preventivi. Un'ultima cosa, Alberto Genovese, da assicurazione.it le chiedo: come mai non si può fare un preventivo se la polizza scade oltre i 60 giorni da oggi? È uno dei dati che richiede il vostro sistema. Se la mia polizza scade per esempio a ottobre, io non posso fare il preventivo. Non c'è nessuna compagnia assicurativa che offre preventivi a più di 60 giorni. Ok. E quindi noi di riflesso non possiamo fornire questo servizio. Molto bene, www.assicurazione.it per tutte le informazioni. Questo era l'ultimo ospite della nostra inchiesta a 9 settimane sulle compagnie dirette operanti in Italia. Vorrei ringraziare Alberto Genovese, che ne è responsabile. A presto Alberto e buona serata. Grazie, buona serata. Vi ricordo anche che su radio24.it, naturalmente nello spazio della nostra trasmissione di motori, troverete non solo tutti i preventivi che abbiamo chiesto su 3 profili precisi: un quarantenne a Milano, una signora pensionata a Roma e un neo patentato studente a Palermo, con tutti i dettagli e tutti i preventivi delle assicurazioni. Le abbiamo incrociate con uno schema Excel facile, anche per dare una prima impressione di quale può essere la compagnia più vicina alle vostre esigenze. Cambiamo argomento, affrontiamo una chiusura importante della nostra trasmissione insieme al presidente dell'ACI, Enrico Gelpi. Presidente, buonasera. Buonasera a lei. Intanto mi consenta di ringraziarle, è la prima volta dopo tanti anni che io faccio questa trasmissione, dopo tanti anni che sento i suoi collaboratori, è la prima volta che lei si affaccia ai nostri microfoni. Questo mi fa piacere in quanto rappresentante di una grandissima fetta di automobilisti italiani. Sono onorato anch'io di poter essere con voi. Bene, bene. Senta, Presidente, io legherei l'argomento di cui abbiamo deciso di parlare e di cui si è già parlato sui giornali nelle settimane scorse con quanto è successo in Abruzzo. Noi parliamo di gallerie perché vorrei legarlo non solo per attualità, ma perché oltre ai disagi di cui abbiamo già parlato in questa puntata, strutturali e infrastrutturali, come sempre dopo una tragedia come questa bisogna imparare a prevedere. Trasportiamo questa esperienza che abbiamo su altri lati, per esempio quello edile, nel campo delle gallerie. La notizia è purtroppo negativa e lei stesso ha dichiarato: in Italia è sicuro un tunnel su 3, mentre in Europa 8 su 10. Come mai, Presidente? Ma un po' perché le nostre infrastrutture sono un po' datate, quindi sono state realizzate in epoche in cui gli standard di qualità e di sicurezza erano ovviamente inferiori a quelli attuali, e un po' perché è un po' carente, diciamo, la manutenzione. E infatti lo scopo di questa iniziativa che abbiamo fatto con ANAS è proprio quello di monitorare le infrastrutture, le gallerie, per orientare al meglio gli interventi e gli investimenti, per fare una sorta di piano industriale, quindi intervenire sulle priorità sulla base delle risorse disponibili. Ecco, come sempre, come giusto che sia, ci si scontra contro i fondi necessari per mettere in sicurezza determinate strutture. Consideriamo, Presidente, che quasi sempre, credo nella massima totalità, quando si mette in sicurezza una struttura come un'autostrada, una strada, una galleria, quasi sempre non si può chiuderla, giusto? Quindi il flusso di traffico continua. Sì, certamente gli interventi creano disagi alla circolazione e soprattutto per questo motivo qui sono anche più lunghi, però d'altra parte credo che siano inevitabili, i costi sono molto alti, noi abbiamo fatto una stima del fabbisogno per le sole gallerie autostradali che supera i 2 miliardi di euro, però teniamo conto che per esempio quando è stata chiusa l'autostrada, cioè il traforo del Monte Bianco per l'incendio nel 1999, il danno economico, l'economia italiana per questa forzata chiusura è stato pari a 3 miliardi e 200 milioni di euro, quindi in sostanza è meglio, come anche in questo caso, prevenire piuttosto che curare dopo. Decisamente. Voi avete preso a braccetto anche ANAS, ACE ANAS insieme per la formazione dei conducenti. Che cosa si può fare insieme se istituzioni importanti si mettono insieme nella giusta direzione, Presidente? Beh, intanto facciamo una campagna informativa proprio per una corretta guida in galleria e soprattutto per i corretti comportamenti in caso di sinistri in galleria. Questa campagna consiste nel distribuire agli automobilisti milioni di Deprian sui rispettivi siti, cioè sia nel sito ACE che nel sito ANAS c'è un video che illustra appunto i comportamenti da tenere in galleria e anche la possibilità di simulare il comportamento in galleria e soprattutto il comportamento in caso di incidenti in cui si dovesse essere coinvolti in galleria. Tra l'altro, Presidente, fra poco chiuderemo la trasmissione salutandola con l'Avvocato Lievore che, approfittando della sua presenza, ci ricorderà che cosa dice il codice della strada. Naturalmente ci sono delle prescrizioni precise, gli articoli sono il 153 e il 158. Ma perché in galleria è così pericoloso? Perché avete calcolato aumenta del 50% la pericolosità degli incidenti stradali, che tra l'altro risultano più gravi per la mancanza di adeguati spazi di fuga. Infatti il problema è quello, perché è un luogo costretto, quindi ci sono meno spazi di fughe e c'è anche una difficoltà di gestire le emergenze, quindi per quello che bisogna ovviamente mantenere i limiti e le distanze di sicurezza. Quello che volevo aggiungere per concludere è che l'importanza di queste iniziative è quella proprio, come ho detto prima, di monitorare lo stato delle nostre infrastrutture stradali. Devo dire che la collaborazione di ANAS, la disponibilità di ANAS è stata fondamentale, perché solo fino a qualche tempo fa queste nostre inchieste non erano proprio ben viste dagli operatori stradali, ma ANAS ha capito che è stata fatta con spirito costruttivo, nel senso vediamo quali sono le criticità così c'è la possibilità di intervenire e ci auguriamo che anche gli altri gestori autostradali siano disponibili così come disponibile è stata l'ANAS. Molto bene, Presidente, grazie davvero. Il Presidente dell'ACE, Enrico Gelpi, è stato il nostro ospite. Grazie, a presto e buona serata. Buongiorno. Rimaniamo sull'argomento gallerie, ne approfittiamo per passare la voce al nostro avvocato, ci segue settimanalmente andando a rispondere ad uno di voi che scrive a 4ruote@radio24.it. Buonasera all'avvocato Lievore di Milano, buonasera. Buonasera a lei, ascoltatori. Ha sentito, il presidente dell'ACE è stato nostro ospite, le gallerie italiane risultano più pericolose della media europea e allora siamo riusciti a tirar fuori anche un modo per dare un consiglio. Chiede un ascoltatore, sono stato multato in galleria perché mi sono fermato. Che cosa devo fare? Ne approfittiamo come sempre con lei, avvocato, per ripassare il codice della strada. Allora, iniziamo dicendo che è l'articolo 158 del codice della strada quello che vieta la fermata e la sosta in carreggiata nelle gallerie. Quindi per gli automezzi che per esempio si trovino in panne sono a disposizione delle corsie di emergenza e delle piazzole di emergenza che sono poste a intervalli regolari lungo le gallerie. Le piazzole di sosta sono generalmente dotate di stazioni di emergenza con telefono, estintore ed allarme. Ciò significa che quindi non sarà consentito mai fermarsi o arrestarsi lungo la carreggiata, ma è necessario che anche se l'auto è in panne, questa venga spostata entro queste stazioni o piazzole. Chi o chiunque contravviene appunto a questa disposizione sarà dunque soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa che va da 36 a 148 euro. Certo che a considerare il fatto che per alcune infrazioni decisamente meno gravi c'è una decurtazione di punti e per questa il fermarsi in galleria c'è solo una sanzione amministrativa, solo tra virgolette, da 36 a 148 euro, vengono in mente le polemiche, insomma, di chi dice che non tutte proprio le sanzioni sono proporzionate fra di loro. Vabbè, quali sono i comportamenti da tenere in galleria, avvocato? Allora, quando si entra in galleria, l'articolo 153 del codice della strada prevede che vengano immediatamente accese le luci anabbaglianti anche di giorno, anche durante la marcia, indipendentemente dall'illuminazione della galleria stessa. Certo, ne approfittiamo per dire che in autostrada ovviamente questo discorso è ovvio perché gli anabbaglianti sono già accesi, però gallerie ce ne sono tantissime, soprattutto sulle statali e provinciali, prego. Esatto, poi ovviamente dovremmo rispettare quello che saranno i semafori, i segnali stradali e i limiti di velocità che sono posti per l'interno della galleria. Poi? Sarà necessario mantenere le distanze di sicurezza dal veicolo che ci precede, anche in caso di rallentamento o di fermata, e proprio in questi casi sarà necessario accendere le luci di emergenza o spegnere addirittura il motore quando all'interno della galleria ci troviamo con dei veicoli già fermi. È vietato sorpassare in galleria se non viene esplicitamente consentito ed è comunque ovviamente vietato fare inversione di marcia e retromarcia. Ultima cosa, è vietato usare abbaglianti e clacson quando ci troviamo in galleria. Ecco, questo proscrivono gli articoli 153 e 158 del codice della strada. Per scrivere all'avvocato Lievore, 4ruote@radio24.it. Avvocato, grazie e buona serata. Grazie a lei, buonasera. Allora, grazie all'avvocato Lievore e a tutti gli ospiti che sono intervenuti, ma soprattutto grazie a voi, ascoltatori, che fedelmente ogni sabato ci seguite anche sul web, radio24.it, nella nostra trasmissione, nello spazio della nostra trasmissione scaricabile, tutto quanto avete sentito. Grazie a Fabio Cantadori, è rimasto in regia insieme a me, Roberto Rasia vi ha parlato, vi augura soprattutto una buona guida insieme al Buona Pasqua.